24 di Giovanni Minoli. Donald Trump non si ferma, va avanti sicuro nonostante le proteste furibonde scatenate dal suo ordine esecutivo contro l'ingresso di terroristi stranieri. Il ministro della giustizia reggente ed ultima superstite in carica dell'era Obama, Sally Yates, ha sfidato il presidente americano sul decreto sull'immigrazione. La Casa Bianca ha licenziato Yates. Intanto le associazioni musulmane d'America annunciano una causa federale e poi anche da Wall Street, penalizzata dal bando, arrivano i no. La protesta è ovunque negli aeroporti, tra i tassisti newyorkesi davanti alla Casa Bianca, tra i ministri della giustizia di almeno 15 stati americani, nelle corti federali, nelle capitali di mezzo mondo. Grandi industrie come Ford, imprese come Starbucks, Twitter offrono apertamente ospitalità ai rifugiati, lavoro e copertura. La protesta arriva inevitabilmente a Hollywood, diventando protagonista dei SAG Awards. Se Donald Trump ieri ci aveva raccontato di avere un paese unito dietro di sé, allora le immagini di oggi lo smentiscono già. Buongiorno, bentornati su Mix24, abbiamo con noi Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno. Ecco, qualche settimana fa, qui a Mix24, lei ha detto una cosa importante, riascoltiamolo insieme e poi ne parliamo. In altri tempi ci sono state naturalmente situazioni analoghe, ma non così acute, non così violente, per così dire. A me sembra che vi sia quasi, lo dico con una certa preoccupazione, sì, perché mi sembra, sì, un'esagerazione, ci siano i sintomi, i prodromi di una guerra civile. Ecco, professor Romano, sono passate poche settimane da questa sua affermazione. Il clima negli Stati Uniti sta peggiorando. Professore, rischia di essere stato un profeta? Non lo so, spero di no. Ma continuo a constatare che nel paese vi è una fortissima tensione. La campagna elettorale è finita, eppure continua. E continua anzitutto perché Trump produce una legislazione effimera, e queste sue ordinanze esecutive naturalmente sono destinate ad essere o bocciate da qualche tribunale o addirittura hanno una scadenza. Pensi per esempio a questa ordinanza sull'arrivo dei rifugiati. Certo, siamo tutti scandalizzati, ma quella ordinanza dura 90 giorni. Appunto. E allora sì, che senso ha passare una legge che è destinata a durare soltanto 90 giorni? Ma che senso ha anche fare una rivoluzione per una cosa che comunque ha dei precedenti già fatti, non è una novità. Anche Obama l'aveva fatto. Certo, anche nel caso del muro, per esempio. Appunto, il muro l'ha stato fatto da Clinton prima, da Obama poi. Cioè, insomma, c'è una forzatura nei suoi confronti, forse, proprio per questo inizio di mandato. I democratici non accettano la sconfitta. Mi pare che i democratici non accettano la sconfitta e Trump si sta comportando come se la campagna elettorale non fosse finita, anzi se continuasse, come se la sua principale esigenza fosse quella di dimostrare che può fare tutto quello che ha promesso. Però questo è anche un inedito, diciamo, nella politica, un leader che fa quello che ha detto che avrebbe voluto fare. Sì, ma lo fa senza nessuna garanzia che possa effettivamente durare come legislazione. Ho l'impressione che stia ancora trattando la politica americana come se fosse come le sue imprese, vale a dire con una serie di annunci non necessariamente destinati a durare nel tempo, anzi certamente qualche volta assolutamente effimeri, ma sembra che questa è una campagna elettorale, non è un governo del paese. Però ambasciatore, Trump ha licenziato il ministro della giustizia reggente nominato da Obama, che non voleva difendere in tribunale il provvedimento della Casa Bianca sull'immigrazione. Però è un atto straordinario o ordinario? Beh, anzitutto quel ministro lui l'avrebbe sostituito di appunto, lì a qualche tempo. Esattamente. Quindi ancora una volta è il gesto che per lui sembra importante. Il gesto presenta dei vantaggi, ma sono i vantaggi di un uomo, di un imprenditore, come dire, che ha sempre lavorato ad effetti. Però Ronald Reagan nell'81 ha licenziato oltre 11.000 controllori di volo per uno sciopero illegale e così ha dimostrato di tenere il timone della burocrazia federale. Insomma, Trump in qualche modo fa qualcosa che è già stato sempre fatto. Sì, assolutamente. Ma il fatto stesso che, pur essendo nella linea di alcuni suoi predecessori, continui ad essere contestato dalla grande stampa americana. Certo, quando parlo della grande stampa americana, noi dimentichiamo quella. È una grande stampa liberal che gli ha fatto la guerra dall'inizio. Naturale, dimentichiamo che vi sono certamente giornali nelle piccole città o anche nelle città medie che sono schierati sulle posizioni di Trump. Ma forse quello che non mi sembra funzionare è il fatto che vi è nell'opinione pubblica americana il desiderio di cacciarlo. L'elezione è stata fatta, bene o male è stato eletto, ma una grande parte dell'opinione e della società americana ragiona e si comporta come se la sua presidenza dovrebbe essere destinata a durare un tempo limitato. Ecco, ma non è anche semplicemente il fatto che, come dicono Roma, non ci vogliono stare? Cioè che le elezioni le ha vinte Trump, non è che le ha rubate? No, certo, anche se il fatto di avere perso il voto elettorale, vale a dire il voto. Vabbè, quello è capitato altre volte, sì. È capitato altre volte, ma 2 milioni o 2,5 milioni sono piuttosto parecchi. Ma è la legge elettorale quella. È la legge elettorale ed è un'altra delle ragioni di questa crisi istituzionale che io credo di intravedere dietro le vicende di Trump. In altre parole, avere ancora oggi, in una situazione completamente diversa, due regole elettorali che sono anacronistiche perché legate al periodo, certo, naturale, dello Stato, come per l'appunto il collegio elettorale, insomma mi sembra che questo abbia fatto esplodere, Trump sta facendo esplodere con le sue esagerazioni. Una contraddizione di fondo della struttura dello Stato proprio. Una contraddizione di fondo, esattamente. Ecco, però Trump ha giurato il venerdì, lunedì ha ricevuto la Casa Bianca e i sindacati che sono usciti entusiasti da quell'incontro. Cioè è come se Trump stesse andando oltre i confini dei partiti tradizionali della storia americana. Ha in testa o comunque ha messo in atto un movimento assolutamente nuovo, inedito? Beh, non tanto nuovo e inedito, perché naturalmente l'isolazionismo e il protezionismo sono nella storia americana, della storia, sì, politica americana. E non è sorprendente che i sindacati lo elogino e lo acclamino, perché non bisogna dimenticare che quello che lui sta promettendo è una forma di protezionismo. In una situazione in cui la globalizzazione aveva spostato nel mondo una buona parte delle grandi industrie americane, farle tornare a casa, come sembra essere l'intenzione di Trump, non può che renderlo popolare agli occhi dei sindacati. Ecco, ma lo scontro con la Merkel mette in primo piano, però, in qualche modo denuncia esplicita l'arroganza tedesca in Europa. È una sorta di tentativo di fare un divide et impera in Europa, eh? Sì, si può davvero accusare la Merkel di essere responsabile del livello del valore dell'euro, casomai quello che maggiormente dovrebbe essere provare risentimento per le dichiarazioni di Trump dovrebbe essere, mi sembra, Draghi. Anche lì credo che abbia sbagliato bersaglio. Insomma, c'è una leggerezza, c'è una in queste sue dichiarazioni che naturalmente alimentano quel sentimento di protesta e di diffidenza che è nella società americana. Ecco, professor Romano, però la Germania sembra in qualche modo sempre più isolata, non riesce a costruire una governance europea, ha appunto pessime relazioni con la Casa Bianca e la Merkel forse ha anche problemi in casa. Dovrà cambiare la linea politica in Europa? A che cosa alludiamo? Al surplus commerciale? E in questo caso sì, c'è evidentemente un errore, una forma di egoismo in un certo senso, e questo va rimproverato alla Germania, ma va davvero rimproverato alla Germania il fatto di continuare a richiamarci all'obbligo di avere nella gestione del proprio debito pubblico una politica di maggiore, come dire, saggezza, di maggiore temperanza. In fondo non dimentichiamo che l'euro è una moneta comune ed è inevitabile che un paese che si comporta bene con quella moneta abbia qualche volta dei risentimenti nei confronti di quella parte dell'Unione Europea in cui ci si comporta male, e qui evidentemente il riferimento è anche a noi. Ecco, sì, ma professor Romano, in qualche modo non sarebbe, per capire bene quello che sta capitando nel mondo, non sarebbe ora di smettere di chiamare i movimenti nazionalisti con il termine dispregiativo di populismi? In fondo sono elettori che cercano delle risposte che la globalizzazione troppo veloce non ha dato. Certamente le ragioni per qualche risentimento ci sono. Ma io sono preoccupato da questi movimenti populisti, oltretutto perché hanno una caratteristica che noi tutto sommato dovremmo conoscere e dovremmo ricordare. Predicano una democrazia diretta e poi inevitabilmente si comportano come se il leader fosse un padrone. E questo dimostra come in questi movimenti di democrazia diretta, molto demagogici peraltro anche nei loro programmi, certo, si nasconda sempre il pericolo di una democrazia ribaltata, di una democrazia non democratica, non popolare. Ecco, noi abbiamo visto in Inghilterra un caso molto interessante, perché i tribunali rallentano la Brexit votata dal popolo, in qualche modo i rappresentanti del popolo contro il popolo. Quanto è compatibile oggi la democrazia diretta, referendaria, con i meccanismi della democrazia rappresentativa? Ma io credo che finché non troveremo di meglio, la democrazia rappresentativa è quella che ancora mi garantisce una maggiore partecipazione reale della società e dell'opinione pubblica. Guardi che anche l'Inghilterra ha un problema istituzionale grosso, ma veramente grosso, perché quando a un certo punto vi sono uomini di governo come la signora May che cercano di evitare il Parlamento, e quando la Corte a un certo punto la richiama all'ordine e la manda a Westminster, ma al tempo stesso dimentica di dare una voce in capitolo a quei due parlamenti, quello dell'Irlanda del Nord e quello della Scozia, che erano stati creati quando all'epoca di Tony Blair si era fatto un tentativo verso la federalizzazione dello Stato britannico. A me sembra che non possono che incoraggiare il separatismo della Scozia e dell'Irlanda del Nord. E quindi dappertutto in realtà è tutto in un movimento profondissimo. Certo, e questo in qualche modo va governato, ma non possiamo cercare di governarlo accettando politiche come quelle di Trump. Ecco, ma governato da chi, professor Romano? Perché l'America, secondo lei, se ho capito bene, non sarà più il gigante che sorveglia la pace nel mondo. E questo dovrebbe offrire a noi un'occasione, a noi in Europa naturalmente. Mi rendo conto che quando parlo di Europa suscito probabilmente un certo scetticismo e qualche sorriso, perché questa Europa non sembra manifestarsi come dovrebbe, ma lo spazio c'è, voglio dire, noi abbiamo una grossa responsabilità, continuiamo a dire che abbiamo un patrimonio di valori civili che ci rende diversi, beh, dimostriamolo di essere diversi. Ma lei lo vede il leader in Europa in grado di dimostrare questo e guidare l'Europa in questa direzione? Ma i leader in generale nascono sollecitati dalle circostanze. Questo Schulz, fino che era Presidente del Parlamento Europeo, voglio dire, è stato un presidente molto decoroso. A proposito, si ricorda che questo è lo Schulz che sì, quello di Berlusconi, sì. Sì. Mi ricordo bene. I ritorni della storia. E a proposito di ritorni della storia, per chiudere, tutto quello che abbiamo detto fin qua, la conferma in quella paura che lei ha espresso qualche settimana fa prima dell'elezione, quando diceva che vedeva tratti di segnali, diciamo così, di guerra civile in America? Diciamo che piuttosto che non ho visto da allora alcun segnale che fosse veramente rassicurante. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è Mario. Senti, mi sembra che però sostanzialmente il problema di accettare la vittoria di Trump sia ancora un problema per moltissimi. Sì, l'America non è mai stata così divisa in tempo di pace. Lasciamo passare un po' di tempo e vediamo però, quello che capita e vediamo che succede. Secondo me resta un punto, una distanza abissale tra quello che tra l'America raccontata dai media, esatto, e l'America reale. È questo, insomma, questo risveglio del popolo, sì. L'establishment lo rifiuta in qualche modo, Pietrangelo. Se posso fare un esempio forse forzato con la storia, l'establishment in difficoltà mi ricorda un po' lo stupore dei banchieri svizzeri che dopo aver finanziato Lenin vedono scappare di mano la situazione con una rivoluzione bolscevica che travolge tutto. Però ha introdotto i primi germi della globalizzazione anche in qualche modo, a vederla certo, con gli occhi di dopo. Pippo Civati, deputato, fondatore del Movimento Politico, buongiorno, del Movimento Politico Possibile. Buongiorno, a proposito di buongiorno. Possibile, oggi mi sembra che ce n'è tanta di carne al fuoco. Ecco, ha sentito Sergio Romano, mi sembra che si faccia una grande difficoltà ad accettare il fatto che ha vinto Trump. Sì, si fa difficoltà anche perché Trump si pone in rottura clamorosa anche con una certa tradizione del mondo repubblicano americano, non soltanto dei democratici. Mi pare di capire che anche i sondaggi di gradimento dicono che c'è già qualche segnale di non tanto di perdita di consenso ma di smarrimento di una parte dell'elettorato. Ma più moderato. Insomma, in 8 giorni è già sceso sotto il 50%, cosa che non era successa a nessun presidente americano nel corso di mesi o di anni. Cosa dici, Mario? 8 punti di vantaggio sul provvedimento dell'immigrazione, sondaggio di Ipsos. Senta. Non lo so, guardi, io vedo delle statistiche americane che dicono che di solito i presidenti perdono la maggioranza dopo anni e Trump ci ha messo pochi giorni. Beh, la maggioranza non l'ha ancora persa, non lo sappiamo, lo vedremo nel Parlamento anche come vanno anche le cose. Nel Parlamento, secondo me, come diceva Sergio Romano, questi provvedimenti non incontreranno proprio, come dire, una strada spianata, sì, perché sono totalmente inefficaci e abbastanza insensati rispetto a una tradizione americana che insomma dice altro. Onorevole Civati, che dire che queste cose siano così amate, insomma, no, forse non lo so se sono amate, no, però io dico una cosa, onorevole Civati, ha vinto le elezioni e questo è un fatto. In genere nella tradizione americana si combatte fino all'ultimo sangue, ma poi quando uno vince ha vinto e si accetta la vittoria. Secondo, sarebbe la sensazione è che dato che i media di tutto il mondo, americani soprattutto, hanno puntato tutto contro Trump, hanno perso loro soprattutto, sono loro che sono quelli che non ci vogliono stare più di tutti. Sbaglio, ho una sensazione? Questo può essere. Io non sono certo qui a difendere, come dire, un certo riflesso della classe dirigente universale che ha preso delle decisioni che spesso sono state rimproverate a quelli come me anche in Italia, no? Non ci appunto sono alternative, bisogna votare così, se non si vota almeno peggio, no? Con risultato. Ma voglio dire, Trump è una sfida per la sinistra europea, certo, anche sì, la sua vittoria, certo, perché radicalizza il quadro politico. Radicalizza e pone delle questioni che sono state sottovalutate, si parlava di globalizzazione, ecco, si parlava. No, ma su questo siamo d'accordo. Stavo riflettendo sul fatto che forse non è così immediata la soluzione, ecco, mi pare non, che anch'io penso sì. Ecco, però la violenza della vittoria di Trump pone dei problemi violenti e radicali in qualche modo. Certamente sì, è anche la ricerca appunto di soluzioni che siano altrettanto radicali, ma magari più sensate, più democratiche. Va bene, è questo. E questa è una sfida che inevitabilmente polarizza. Ci avevano spiegato che bisognava guardare al centro, che eravamo tutti diventati moderati, che tutto sommato il mondo funzionava abbastanza bene. E invece non è così. Per esempio, se uno guarda le primarie in Francia, che sono state la vice della Monde, che è il cabinato, è il candidato della sinistra radicale, quindi in qualche modo il quadro della realtà si sta radicalizzando non verso il centro ma si polarizza al contrario, lo vediamo anche in Italia. Certamente, no? Sì, quindi c'è questa necessità di ridare senso alle cose che in questo momento è un problema di offerta politica, potremmo dire. Lo stesso Trump ha vinto autonomamente rispetto al suo partito, è una cosa che non era mai successa, no? Nel corso degli ultimi anni che ci ricordiamo, poi forse in qualche secolo fa, un secolo fa magari era già successo. Anzi, Bush Senior ha detto che ha votato per la Clinton, quindi siamo addirittura... Infatti, quindi... Come certo trasversalismo, noi in Italia lo chiamiamo trasformismo, no? Ma insomma ne abbiamo viste tante in questi anni, e fenomeni come quello di Trump impongono una reazione che non è solo quella o tanto quella di riempire le piazze, come ricordava lei, ma di immaginare un percorso politico diverso, insomma, delle proposte quindi si apre quella direzione. Si apre uno spazio per una sinistra alternativa. Dico... Secondo me si apre uno spazio per una sinistra che in questi anni non si è vista. La stessa Clinton, soprattutto il suo pacchetto di sostenitori, non erano esattamente quelli che ci verrebbero in mente se dovessimo teorizzare la sinistra. Esatto. Quando si affacciò Sanders, io lo sostenni, mi presero in giro, dicevano che era come Civati, che non prendeva voti, che era un candidato, un ballon d'essai. Civati come Sanders non è male, no, è andato forte. No, era il contrario, capisci cosa voglio dire? Cioè, sì, prendevano in giro Sanders e i commentatori italiani dicendo è uno velleitario. Forse se fosse stato ascoltato di più il suo messaggio rispetto alle questioni che dicevamo, popolari, legate al lavoro, legate alla paura e all'incertezza delle popolazioni più fragili, forse il risultato elettorale non sarebbe stato così devastante. Però la globalizzazione ha portato delle grandissime disparità, ormai sono davanti agli occhi di tutti e se ne parla, ma la sinistra l'ha cavalcata con il clintonismo e il blairismo, cioè gli alfieri di questo processo, e quindi no? Sbaglio? Ma sì, la stessa cosa potremmo dire forse dell'Europa, no? Sì, cioè, sì, l'Europa, certo. Come se la formula europea di fatto fosse una panacea, no? E risolvesse tutti i problemi, estendesse i diritti, ci facesse diventare anglosassoni, tipi, no? Come se fossimo in Scandinavia. Il problema è che ci vuole la politica. Guardi, io penso che le disuguaglianze, lo dico da tantissimi anni, è possibile all'uguale nel simbolo. Cioè il problema è la disuguaglianza, che non vuol dire l'egualitarismo stupido. No. Serve ridurre però a comprensione anche questioni che non sono mai toccate. Le faccio un esempio: nessuno parla di una questione per me radicale, che è la tassazione delle multinazionali. Queste possono non come pagare no? le tasse. Se no, parla. No, voi lo fate, però nella politica italiana sono state promesse cose. Nella politica europea abbiamo un presidente Juncker che era capo di un paese paradiso, potremmo dire, mentre l'inferno ce lo lascia a noi. Quindi capisce che ci sono questioni che io affronterei non con i muri o con le dichiarazioni di guerra da alcuni paesi o i loro profughi, ma con l'idea di rovesciare alcune questioni che non sono toccate. Ecco, ma per da chi comanda e da chi contribuisce al welfare. Onorevole Civati, però per venire alle questioni nostre e per non rischiare di trasformare l'opposizione a Trump in quello che è stato per 20 anni l'opposizione a Berlusconi, che ha isterilito la politica della sinistra, perché il problema era far fuori Berlusconi per 20 anni, l'unico problema era quello, e non è stato fatto fuori e la sinistra ha smesso di pensare. Per evitare che capiti questo, cosa facciamo? Promuoviamo la scissione nel PD? Beh, guardi, io me ne sono andato perché pensavo che quel modello fosse molto simile alle cose che avete denunciato, cioè a un certo clintonismo di prima e di seconda maniera, a certi riflessi centristi che non affrontavano il disagio sociale e a tante altre cose che abbiamo visto in questi ultimi mesi. E quindi... Il problema è fare un progetto di governo che incalzi tutti, che abbia una definizione precisa, che dia una paga oraria decente, che dia magari un reddito minimo che c'è in tutti i paesi europei, senza esagerare, non a mon, mi basta quello che c'è già in Francia per capirci. Sì. Oppure ancora delle scelte rispetto all'Europa che non siano quelle di andare a fare i fenomeni come è successo puntualmente fino a ieri, ma di segnalare che così non regge più lo Ma schema. Secondo lei Renzi ha la possibilità di salvare il suo progetto oppure? Secondo me no, guarda, io sono convinto di no da tempo e credo anzi che la riflessione non tanto su Renzi o sul rentismo, ma su quello che diceva lei, cioè sugli ultimi 20 anni della sinistra, si debba imporre a tutti quelli che vogliono provare a vincere le elezioni e governare il paese. Quindi diciamo è una questione che è ancora pre-politica. Cosa si vuole fare davvero, con quali figure, con quali persone, ma soprattutto con quali progetti. Ecco, ma allora per chiudere Civati, con le elezioni di Trump possiamo dire che è finita un'epoca, e in Europa allora quale sarà il gong che farà partire un altro tempo della storia? Lo vede all'orizzonte? Guardi, io temo che il gong in Europa arriverà tardi, nel senso che il gong è suonato quando c'è stata la questione greca, è suonato quando ci sono state alcuni risultati elettorali in alcuni paesi. Non vorrei che però se vincesse la Merkel o vincesse un moderato in Francia avremmo risolto i problemi, non so come dire, no? Come se fosse un palliativo. Merkel è in vantaggio, potrebbe rivincere, in Francia potrebbe non vincere alle penne, me lo auguro ovviamente, ma questo non significa che è tutto a posto così, insomma. Se non c'è una riflessione anche su quello, le spinte no euro stanno andando da tutte le parti. Beh, perfino Draghi incomincia a avere dei dubbi. E quindi, invece di avere dei dubbi dovremmo anticipare la dissoluzione dell'Europa senza dare tutto per scontato, però, perché le persone sono esasperate e molto spaventate. E quindi Grillo può vincere le elezioni. Può vincere Grillo, può vincere la destra, può vincere Trump, può vincere chiunque. Speriamo che ogni tanto possa vincere anche una sinistra degna di questo nome. Grazie, Civati. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Pubblicità. Mix 24. Allora Mario, mi sembra che il tema sia impostato in modo chiaro, cioè con non le soluzioni, ma il tema sì. Con l'elezione di Trump è finita sicuramente un'epoca. Sì. In Europa, come abbiamo detto, il gong per chi suonerà? Perché quello che sta capitando per la Francia. Io penso alla Francia, perché vedo Fillon in grande difficoltà, sì. Quindi, non solo per gli scandali, ma non so, gli manca, non riesco a percepire perché l'elettore di destra dovrebbe votare lui. E quindi tu pensi che vinca la Le Pen? Cioè, non so destra, se vince, di centro, però, deve vincere poi. Però è oggettivamente, allo stato attuale, è la favorita, ma anche per dopo, questo è il punto. E quindi questo, dal punto di vista delle conseguenze sull'Europa, naturalmente sono molto grandi. No? La dissoluzione dell'Unione, ovviamente. Anche perché la Francia ha un respiro importante dal punto di vista proprio della sua stessa identità. La Francia contiene se stessa e il contrario di se stessa. Mi spiego, contiene la rivoluzione francese, ma anche gli anticorpi alla rivoluzione francese, perché accanto alla Marianna c'è comunque sempre presente un istinto di Vandea, un istinto di popolo, c'è Giovanna d'Arco. Certo. E la Francia rappresenta sicuramente una contraddizione. La vedo molto più complicata invece in altre realtà, non ultima l'Italia. L'Italia, per esempio, non ha la capacità di avere questo scatto di maturità verso la coscienza di sé, perché è Grillo. Fortemente colonia. Ma lo stesso Grillo, Mario. Se Grillo fa politica, cioè fa alleanza dopo, allora c'è una maggioranza Grillo sovranista possibile. Fa fatica però a dire chi è. Grillo, hai ragione. Fa fatica a dire chi è, ma dall'altro lato purtroppo non ci sono figure, immagino che sia soltanto la Lega l'unico interlocutore ragionevole nei confronti di Lega, però gli elettorati sono simili. Però appunto gli elettorati sono simili, noi conosciamo benissimo l'opinione pubblica che fa riferimento per esempio alla Lega, eppure i loro campioni sono tenuti ai margini, non sono mobilitati, e mi riferisco per esempio ai dati forniti anche dai sondaggi per cui sia Maroni sia Zaia, che sono considerati tra i migliori amministratori, governatori di regioni importanti, sono però tenuti ai margini dal dibattito politico, ai margine lo stesso Giulio Tremonti, che invece da più parti è richiesto ad un impegno. Però loro sono su una linea di amministrazione. Cioè di far prevalere la lettura del loro impegno sulla loro capacità di amministrare, però adesso che è quello che serve per fare politica. Serve per fare politica, ma c'è bisogno di un disegno, di una strategia che non può essere quello degli slogan. E qua l'unica azione sovranista in Italia l'ha fatta paradossalmente Romano Prodi, quando ha detto chiaramente di risolvere la questione con la Russia. Ma non l'hanno fatta gli altri, che si agitano soltanto sugli slogan. Per questo ripeto, l'abbiamo avuto ospite con noi, uno come Giulio Tremonti, adesso è richiesto fortemente fortemente a impegnarsi, perché è l'unico ad avere un pensiero. Esattamente. Secondo me gli elettori di quell'area là, che è un magma in questo momento, sono più avanti dei loro leader. Ma molto più avanti. Sono molto più avanti, capisce. Guardate, fanno scelte simili, si scambiano i candidati, cioè sono già oltre l'idea dello steccato del partito. Ma soprattutto la incapacità di gestire in modo strategico il problema dell'immigrazione è stato il là della, come dire, inettitudine, sì, dell'elite. Assolutamente. Perché le hanno provate a parole tutte, sì, e nei fatti le hanno subite tutte. Ma e quindi chiaro, in questo senso non è un caso che Trump parte di lì, Giovanni, per dire: io non voglio il caos che c'è in Europa. Ed è talmente poi come vero, si risolve lo si vedrà, però è chiaro. No, ed è talmente vero quello che dici, che noi siamo talmente moralisti e ipocriti da fare la critica a Trump per un provvedimento che dura un paio di settimane per rivedere le norme e dimenticare prontamente che noi stacchiamo un assegno da 3 miliardi in favore di quel sincero democratico di Erdogan, cioè del presidente della Turchia, per fare il lavoro sporco alle frontiere della Siria. Esatto. Ma di che cosa stiamo parlando? Però non ci vergogniamo. Però, tutto giusto, però sarebbe opportuno ricordare che il caos che viviamo in Europa, le bombe migratorie che ci arrivano in Europa, sono state determinate dalla politica dell'amministrazione americana. Non c'è dubbio, questo sicuramente tutti concordano che se si può dare un voto favorevole al presidente americano Obama sulla politica interna, in qualche modo, certamente la politica estera è stata veramente molto molto disastrosa. Pietrangelo, cosa ci fai sentire stamattina? Arriva. Lupi e cervi oggi per strada venivano dai monti, si lasciavano cadere dal dorso e dalle zampe il ricordo della neve, quella che avevano lasciato nei boschi, e portavano il bianco sull'asfalto, e senza aspettare un segno hanno dato vita a una coreografia, era quella della nobiltà e della bellezza. Ha infatti chiamato Diana Cacciatrice, ha voluto questo brano giusto per dedicarlo a Rosa. E Rosa chi è? Amica sua. Rosa fresca o lentissima, capari in ver l'estate. Vabbè, ho capito. Armadio. Questo chi è? Fabio Volo, chi è? Vai, va. Vai con la tua bolla. Ma che blasfemo! Questa forza di frequentare gli americani. Questo è bellissimo. I'm so io quando sento Al Green cantare questa meravigliosa canzone mi ricordo sempre una scena del film di Quentin Tarantino dove Bruce Willis sta truccando l'incontro di pugilato che poi non trucca. E allora? E niente, così un ricordo personale cosa. Ma siamo in America, ovviamente, non è Hollywood. Non dubitavamo, dai. È l'amministrazione Trump e dell'Europa, tema che mi pare affronteremo. E occhio a quello che fa e dice Peter Navarro. Perché, ha già detto. Perché il capo del National Trade Council, che è un organismo molto importante dentro la Casa Bianca, nominato da Trump, ha detto che il marco tedesco è sostanzialmente, sì, il marco tedesco, che l'euro è il marco tedesco. Beh, è un lapsus freudiano vero. che l'euro è implicitamente il marco tedesco e che è quindi sottovalutato. Questo avvantaggerebbe i tedeschi nei confronti degli Stati Uniti, ovviamente una guerra commerciale, e naturalmente anche nei confronti degli altri partner europei. Ora, sapete tutti che questo è un temone, non un tema. Certo. Lo stesso Renzi, nella sua disputa con la Germania, con Angela Merkel, ha sempre detto che la questione del surplus tedesco, insomma, il re è nudo, è il re è nudo. Il re è nudo e si capisce una cosa, secondo me, che la dissoluzione o la continuazione dell'Unione Europea passa attraverso un testa o croce sulla sua moneta. Mi pare un tema molto rilevante, che avrà delle conseguenze, perché quando gli americani escono così non è che poi non fanno le cose, le fanno come abbiamo visto. Bisogna capire quale sarà la reazione della governance europea. Cosa pensi? Io penso che vanno a votare tutti, e quindi prima di sapere quale sarà la reazione bisognerà aspettare il risultato del voto, come se ci fosse una terra di nessuno nella quale ognuno può dire quello che vuole, perché intanto nessuno reagisce. Salamino! Non ti fidare di fuoco, di vento, di monaco uscito da convento, di ricco che fu poverino e di femmina che parla latino. Ma, caro Giovanni, non è certo una damina Massimo D'Alema, ascoltiamolo. Avrebbe scritto un grande poeta: quandoquidem dormitat Homerus. Mi sfogo qui perché nel Partito Democratico non si può più parlare in latino. L'ex presidente del Consiglio, già vincitore al referendum contro l'armata del bene, invincibile drago, appunto, che ha stretto d'assedio perfino la soave, la severa e silente Maria Elena Boschi, tradito come mai leader, si è trovata a essere tradito da tutti i suoi, e cioè da La Torre, da Minniti, da Rondolino, da Cuperlo, dalla Finocchiaro, non però da Mirello Crisafulli, che oggi consegna al superbo Giuseppe Falci sulla stampa il rinnovato patto di lealtà. Insomma, lui ricomincia da 10. È il 10% e senza tema di apparire come il Fausto Bertinotti 2.0, perché sarcastico come non mai, Massimo D'Alema affila le armi. In questa situazione che cosa deve fare il centro-sinistra? Precipitare verso le elezioni? Come? Ho visto che il presidente del Partito Democratico, non è scritto, ha detto: entro 10 giorni o fate la legge elettorale che vogliamo noi, oppure si vota subito. L'idea al voto, basta, pulizia, eccetera, fu la linea che abbiamo seguito a Roma. Stesso autore, probabili medesime conseguenze. Stesso autore, probabili medesime conseguenze. E i resti di quel che fu uno dei più potenti eserciti postcomunisti risale in disordine e senza speranza i blog, gli hashtag, i tweet, i post che aveva linkato con orgogliosa sicurezza, e un nuovo manipolo di liberi si stringe intorno a Consenso. È la sigla, caro Giovanni, e poi si dice Consenso con tanto di trattino heideggeriano, si ritrovano quelli che non se le erano bevuta la favola del Nazareno. E chi sono? Francesco Boccia, tanto per cominciare. Quindi due signore, Sabrina Ferilli e Bianca Berlinguer, il cui appeal, scrive oggi la Guerzoni sul Corriere, la battezza prossima alla sfida per la segreteria del Partito Democratico. Oppure Bianca? Un altro leader, Giovanni, un altro leader lanciato proprio da te, e cioè è Michele Emiliano. E perciò Giovanni, domanda che io ci non domandiamo. Sono intervistato. No, domanda che ci domandiamo, domanda quindi che ti domando, visto che ci sarà a scegliere tra due Rai a questo punto, perché c'è Rai 3 con Bianca e poi la tua. Quale farai vincere? Non mi ricordavo di essere alla Rai, per me scegli il popolo. Populista. (0024) numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mix 24. 70 anni fa muore in Florida Al Capone, uno dei gangster più spietati e famosi della storia. Nato a Brooklyn da genitori italiani di origine campana, immigrati negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, Al Capone è stato uno dei maggiori capi della mafia durante il proibizionismo. Le sue attività nella Chicago degli anni 20 andavano dalle scommesse clandestine al gioco d'azzardo, dal contrabbando di alcolici alla prostituzione fino al racket. Per l'FBI sembrava impossibile incastrarlo. Poi arriva Elliot Ness con la sua squadra di intoccabili e la storia cambia. Inizia una sanguinosa caccia all'uomo nella Chicago degli anni 30, uno scontro tra guardie e ladri raccontato ampiamente dal cinema. Se vuoi Capone, devi fare così. Lui tira fuori il coltello, tu la pistola. Se manda uno dei tuoi all'ospedale, ne mandi uno dei suoi all'obitorio. È così che si fa la guerra a Chicago. Solo così puoi prendere Capone. Allora, accetti o rinunci? Io ho giurato di togliere di mezzo quell'uomo usando tutti i mezzi legali di cui potrò disporre e lo farò. Gli intoccabili alla fine vincono la loro guerra, ma riescono a incastrare Al Capone, dichiarato nemico pubblico numero uno e responsabile di decine di morti, solo per evasione fiscale. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Troppo tardi. Giovanni, non è mai troppo tardi, tu lo sai, vero? Ah, sì, certo. La vita riserva grandi sorprese. Ha più fantasia di noi. Assolutamente, vai. Per nostra fortuna. Ma tu lo sai che il Senato oggi discute? No, io non lo so, dimmelo. Una cosa importante nell'ordine del giorno di Palazzo Madama c'è la delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Ah, in fondo. Devono, no, sì, devono. Veloci, veloci. E uno dice, bene, reazione rapida. No, attenzione alle date. Da quando è in discussione questa roba? 24 settembre 2015. Ah. 15 mesi. 15 mesi per rifare la protezione civile, sì. ma anzi no. Perché sembra che i poteri vadano tutti al commissario. No. La protezione civile è messa definitivamente in sott'ordine. Cari miei, vabbè. L'Italia è veramente il paese dove il provvisorio diventa permanente. Credetemi. C'è un nostro ascoltatore che scrive una cosa che mi ha colpito. Cosa dice? Non sarebbe caso di stabilire, visto tutte le oscillazioni dell'Europa che non riesce a far niente, perché si vota qua, si vota là, ma prima o dopo, non sarebbe caso di stabilire un election day valido per tutta Europa, così da evitare attese tentennamenti? Sarebbe un primo passo rivoluzionario, secondo me, obiettivamente. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA, gennaio 2017. Un rimedio per i rapporti sessuali dolorosi. Questa è una notizia che viene dalla FDA, la Food and Drug Administration, che è l'ente che autorizza la messa in commercio dei farmaci, che ha approvato l'utilizzo di un farmaco per aiutare il dolore moderato severo che alcune donne, in genere intorno alla menopausa, hanno durante un rapporto sessuale. Tale disturbo è legato in genere all'atrofia vaginale tipica della postmenopausa. Il farmaco in questione è il deidroepiandrosterone, DEA, somministrato una volta al dì intravaginale. Sono state studiate oltre 400 donne che hanno avuto questo farmaco per 12 settimane e erano metà di queste donne trattate con il farmaco e metà con il placebo, come sempre succede in questi studi. Donne tra i 40 e gli 80 anni di età, e il DEA, chiamato anche con un bel nome intrarosa, riduce la severità del dolore con modesti effetti avversi. L'FDA ricorda che il DEA è contenuto anche in vari supplementi dietetici, ma non c'è evidenza che quel tipo di somministrazione possa